latti per pigliare i pappagalli e me ne sono mezzo pentito, perché oggi per dire mi ha fatto l'uomo, me l'ha fatto in terra e si è spaccato. Perché sono, come si dice, sono imprevedibili questi bisogni. Io ho una coppia di coccolitti belli, uno celeste, che è la femmina, celeste turchese, e il maschio è verde, giallino fosforescente. Vedimi, con le sfumature nel petto un po' turchese quello verde. Però forse sono un po' giovani. Ce li ho, guarda quando ce li ho. Da novembre ce li ho, da novembre gli ho messo la casettina, la gabbietta da 60, però c'ha gli occhini dentro, l'altalena, le mangiatuie, sono tranquilli, è stato risetto a puttendemi, allora stai canto la canzone della famiglia Hans, e tanto si abbaidano tutti e due, non lo so, boh. Però sono più tranquilli, ogni tanto stanno amoreggiando, io lo ringrazio al capo, la sua ringrazio al capo, ogni tanto si deve andare a brincannina in alto e però alla fine Gita non vuole ancora questo. Miei, guarda che le coccolite comunque possono anche parlare, i pappagalli parlano tutti, se glielo insegni parlano tutti. Io l'altro giorno la stavo fischiando la famiglia Adas, dopo due secondi me l'hanno fatta loro e me l'hanno fatta anche il bacio, paralava. Infatti, no, ma già sono storia, ho visto dei video dei coccoliti, fuori di testa, era una gagliaritana ed è fuori di testa, le dici a Rodugò, ne dici poco così gagliaritana. Vai a guardare quelli che c'ho io, si chiama Lori Arcobaleno, vai a guardare. Coccolitti o pappagallini? No, sono pappagalli medi, non sono né coccolitti né pappagalli, sono pappagalli medi che parlano. Si chiamano Lori Arcobaleno, vai a guardare, hanno i più bei colori che ci sono al mondo. E ce ne sono pochi colorati così. E li hanno visti, belli sono, hanno tipo la testa celeste dietro il collo verde, il petto arancione, pura doviso, panoramica dell'orecchietto dei cucchi, un uccello della famiglia, belli sono già. Ne ho tre io. Quelli che fanno i pulcini sono storie. Ma sai quanto costano? 350 euro l'uno. Già non so che sono cari quei uccellini, questi pappagallini così. Sì, quella ragazza che fa i video sempre c'è. E ci avvisi. Allevamento animatoriale, Lori Arcobaleno. Bacio. Bacio, bacio. Vedi sono. All'inizio parlavano bene, poi un po' li ho trascurati, nel senso che sì, li ho da mangiare, li pulisco, ma prima ci stavo molto insieme, adesso non ho più la pazienza, non so come cosa, perché ho mille cose da fare. Praticamente un po' hanno perso le cose di parlare, capito? Ogni tanto dicono ciao, ma prima di dire in bocca, di dire pure aiuti, aiuti. No, già so che è che sono impegnativi. Adesso sotto c'è una signora che ha tre di quei pappagallini dal collo girato, come si dice, dal collare. E mi ha detto, Gianni, lo vuoi uno che te lo vendo? Ha detto, non è voglio, l'ha già detto che ci vuole una camera per quei pappagallini lì. Ha detto, c'ho già i canarini, due, è una coppietta di coccoliti. L'ha detto, se metto quelli lì, l'ha detto, ci vuole un'altra stanza, l'ha detto, perché alla fine, ha detto, a me rubiato lo so. Allora, i parrocchetti da collare, se tu li prendi da piccoli, gli addestri parlano bene anche, parlano bene. Ma questo è già grandetto, ed è femminuccia, e lei sicuramente me lo vuole vendere perché magari è figlio dei suoi e magari si può fare qualche soldo, però gliel'avrei anche comprato, ma non ne ho posto già dove metterlo e dove... Per quello avrei preferito comprarmi un cuccioletto di Chihuahua, un cuccioletto di chi, come si chiama? No Yorkshire, non l'altro, uno Shih Tzu. Lo Shih Tzu ci avevo io prima, grigio e bianco, bellino, mi va via anche con i zanni. Ci vuole il posto per dare gli animali. Io ho una veranda grande, praticamente chiusa con i vetri scorrevoli, quando c'è caldo li apro, quando c'è freddo li lascio chiusi, li metto in veranda, loro stanno tutti i giorni, si fanno il bagno, c'hanno una vaschetta, c'hanno una vaschetta di gelato da chilo, e ogni giorno se lo fanno, anche se va freddo si va a dire qua. Infatti già, funziona così. Io ogni giorno ci metto un'ora, tra pulirli, dare da mangiare, li libero perché hanno diritto anche loro di sgranchirsi le ali, eccetera, le zampe. Li libero e mentre li libero li pulisco, poi li chiamo e dico io vieni, per quello loro dicevano io vieni, perché io dico io vieni e loro prendono e entrano in gabbia da solo. Troppo dove sono così. Uia. Comunque per la Luca Antura, non so se la Luca quello che abita vicino a te o se la Luca di Via Italia, boh. Comunque mi già da 5 minuti di bianco che mi ha fatto fare un po' di bietole e una bistecchina, che oggi non ho mangiato niente, a chi mi ha mobilizzato luce dolorante stamani e guarda, non lo so, questo clima a me fa che. La salita era nei 15 gradi, stamani era nei 4 gradi, 2 gradi, e non lo so, mi scombussola tutto il sistema nervoso. E quindi mi mangio questa presentina e poi riprendo. E poi tranquillo, dai, buon appetito. Mangia che ce l'hanno. Luca è qua in ascolto. Avanti. Sono qua in ascolto che sto piazzando le casse al computer. Vi ascolto con piacere e intanto sto lavorando. Buonasera comunque. E che casse stai mettendo? Per sentire un po' di musica, per sentire qualche filmato, perché altrimenti era muta questo computer e allora sto facendo un po' di manovre. Io ho preso quelle traste col sub, ho messo, si sente benissimo, c'è un bel sub. Ho messo una soundbar di quelle larghe 60 cm, non lunghe 60 cm. Vabbè, dai. Per sentire la musica, a volte io metto anche musica anni 80 e cosa, me l'ascolto, solo che no, che non si può fare nulla perché ti bussa nel muro subito, se sento la musica ti bussa nel muro. E allora non è musica bella? No, io l'ascolto qui, l'ascolto il Toto, l'ascolto Dire Straits, non è musica bella. La musica mia è U2, Simple Minds. Non è questione di musica bella, è questione che qua la gente deve andare a San Paolo, così almeno c'è silenzio, nessuno li disturba. Capa, mi allontano un po' che mi metto sotto la scrivania a mettere un paio di fascette ai cavi, se no diventa un accumulo di polvere. E fai tranquillo. Avanti, se c'è qualcuno su 10. Oh già. Oh Carlo, buonasera. E anch'io mi stavo ascoltando perché ero al telefono. Ho sentito che sei entrato prima con mio nipote, ero al telefono e quindi meno male ho chiuso, dai. Io è rimasto Luca, prima c'era un po' di gente, c'era Gianni che lo stesso penso sia andato via, Antonio che era in Barramobile, sarà arrivato a casa immagino adesso. Non so chi altri ci sia, c'era Claudio che è entrato, è stato un po' con noi, poi aveva da fare, niente. Poi ti ho sentito che eri con Sampei, ma avevo lo squelch alto e Sampei devo abbassare lo squelch per sentirlo. Ah, capo. Io sono entrato verso le 6:30, penso, se che era una 6:30 forse. Io entro sempre a quell'ora perché io finisco di cantare e poi entro qua. Le mie passioni sono rimaste queste adesso, ne avevo 1000 ma adesso sono rimaste solo 2. Vabbè, è importante che qualcosa ci sia sempre, io lo stesso tra computer, va bene che io già sto lavorando, per me sono un po' di relax perché sto seduto e mi rilassa sia il computer, la radio, capito? Per cui lo faccio volentieri, poi quando inizia la bella stagione ogni tanto mi faccio qualche passeggiata in bicicletta, soprattutto mi piace quando c'è poco traffico, il sabato, in particolar modo la domenica mattina che tutti dormono e tu se è bella giornata ti fai il giro di tutta la città. Io mi faccio tutte le piazze, Piazza Castello, Piazza d'Italia, Piazza Fiume, poi giro, vado alla stazione, salgo, faccio Corso Vico, insomma, un po' la giro in un'oretta, faccio tutti i giri che voglio, ovviamente ho la pedalata assistita, se sono salitoni eccetera mi aiuto con quella, però per il resto pianura, quando si invia l'Italia eccetera, pedali tranquillamente, e quindi qualche passione ce l'ho ancora, poi ogni tanto mi piace andarmene a fare passeggiate, qualche escursione quando capita, e spesso così con mia figlia se ne usciamo ce ne andiamo al mare quando è bel tempo, adesso lì c'è il cagnolino e ci stiamo portando anche il cane in giro qualche volta, e insomma è importante muoversi e fare qualcosina. No, io d'estate non mi perdo un complesso, un cantante, tutti quelli che ci sono vado a vederli. E giro molto, d'estate di notte giro molto, e poi di giorno vado al ghetto, faccio giri così. Al mare non ci sto andando, perché andarci da solo non mi piace. Non ci sto andando, quest'anno non ci sono, sono andato una volta sola ad Alghero, sono andato con mio figlio e con mio ex cognato, e punto, e poi non ci sono più andato. E a me è lo stesso, Alghero mi ha stufato, perché quando vai d'estate è un casino, c'è troppa gente, non c'è parcheggio, ti tocca fare un sacco di passi per recuperare la macchina secondo dove la metti, poi insomma dopo che stai in giro tutta la notte c'è la macchina in casino, capito? È brutta per quello Alghero, e invece se ci vai verso primavera è più tranquillo, magari sino a maggio è visitabile anche la città, ti fa una bella passeggiata, non c'è tutta la ressa del periodo estivo, però giugno, luglio, agosto è quasi invivibile, le spiagge poi non se ne parli, capito? E se vuoi stare un pochettino meglio te ne devi andare o alle Bombarde o al Lazzaretto, capito? E ti devi spostare sempre con la macchina, a quel punto io sto meglio a Platamona. Se abbiamo a Platamona abbiamo la spiaggia più lunga della Sardegna, non ti dico altro, mi pare che sia 10 km. Esatto, infatti. Poi ormai il mare si è ripulito, anche la sabbia che prima era scura per via di qualche nave che risciacquava le stive al largo e poi tutti i residui venivano lì, ma da quando non c'è più la zona industriale di Porto Torres ormai già è tutto pulito quel mare, capito? E già è bello. Se dico solo una cosa, se quel litorale l'avessero avuto gente con mentalità imprenditoriale come ci sono in Emilia Romagna, sarebbe stata una perla tutta la spiaggia di Platamona e Marina di Sorso e sin dove arriva, capito? Con stabilimenti, organizzazione, balere come ci sono a Riccione, nonostante abbiano il mare marron loro, sfruttano tutto, invece noi qua non siamo buoni a niente. Italia. Noi abbiamo il mare bello, però come spirito imprenditoriale poco ce n'è, poco. Vabbè, si è aperto quella riva, come quel ristorante bello, grande, dove c'era cosa. Sì, diciamo qualche cosa si sta muovendo, ma non più di tanto. Esatto, infatti lì dove c'era Ernesto adesso hanno fatto un bel ristorante e mi sa che il proprietario del ristorante che c'è lì a Marina di Sorso, la, com'è che si chiama? La Risacca, hanno aperto quello lì, molto migliorato, ingrandito, terrazze all'aperto, molto carino, l'ho visto. Non ci sono andato ancora a mangiare, non so quali siano i prezzi eccetera, però tutto quello spiazzo che c'è, la piazzetta lì, la rotonda di Plaza Mona, tutta chiusa, ancora tutta sfasciata, ma lì il comune, se non ce la fa il comune, lì la deve dare a privati, come succede in altri posti, capito? Organizzi tutto, fai una bella rotonda con qualche pianta, con le panchine, tutto ordinato, le macchine, fai parcheggi e vedi che quella spiaggia decolla. Sì, adesso non si può entrare manco più in macchina, chi entra è passibile di multa, quindi molta gente preferisce andare più avanti e non ci va alla rotonda lì, perché prima si poteva entrare, si poteva parcheggiare, ora non si può più fare nulla, c'erano messi i pali per non entrare e via. Ci sembra attirare il turismo quello lì, quello lì è proprio mettere un muro davanti, c'è poco da fare. Oh già, io 2 settimane fa ci sono andato, che era una bella giornata, hanno spostato i New Jersey quelli in cemento e la gente sta entrando proprio dentro la rotonda, sono entrato anch'io, era aperto, c'erano le altre macchine e mi sono parcheggiato lì, capito? Però sicuramente lì sarà qualcuno che le ha spostate, però io dico, cosa ci vuole a mettere a posto quella rotonda? Chiudila al traffico, aprila alla gente, mettici qualche bancarella carina, mettici quello che vuoi, mettici le panchine, tutta bella ripulita, con i cestini per i rifiuti, così la gente non sporca, e la rendi vivibile quel posto lì, capito? E non lo vogliono capire, se vuoi che la gente ci vada e spenda i soldi, un bello stabilimento con le balere diurne come ci sono a Rimini, a Riccione, capito? Avrebbero fatto il pienone, io dico. Sì, intrattenimenti tipo acqua gin, tutte queste cose qua, la gente ci va. A me, guarda, se vuoi il mio parere, come l'hanno fatta adesso, la rotonda non mi piace. L'hanno imbruttita, era meglio prima con le ringhiere, con tutto quanto, era più carina. Adesso non mi piace, hanno fatto una cosa proprio basilare, non sa di niente. Sì, ma va ristrutturata quella rotonda, è tutta decadente Gianni, le ringhiere le hanno tolte perché erano tutte arrugginite, lì devi mettere materiali nuovi che non prendono la ruggine, o altrimenti non metti niente, metti piante marine, capito, basse, capito, che creano un po' di verde, e metti le panchine, basta, non devi mettere niente, poi la chiudi al traffico e la gente lì ci sta a chiacchierare, ci va a sedersi, possono entrare i bambini a giocare con la biciclettina, il monopattino, capito? E così devono fare e devono realizzare soprattutto i parcheggi, perché lo spazio c'è per farli, capito? Li fai anche a pagamento, fai pagare poco, la gente ci va, non si lamenta e tutti parcheggiano e ci fai i quattrini, capito? Non lo vogliono capire. E poi liberalizza tutto quanto, dai in gestione a privati e fanno gli stabilimenti, così tengono i litorali puliti, capito? E la gente apprezza e ci va. Ma qua non c'è l'espirito imprenditoriale, non rischia nessuno. In continente prendono prestiti, rischiano, fanno e vanno avanti bene. Se li va bene vanno avanti. Qua non rischia nessuno, non c'è nessuno che voglia rischiare, che prende prestiti e roba del genere. E quindi comunque anche Pani lo volevano prendere, gli hanno messo bastone fra le ruote, perché Pani, io non so se tu sei mai andato, ma io da ragazzo andavo a ballare da Pani, di notte si ballava, c'era quella rotonda davanti al bar dove si ballava. Lo so, ma ultimamente è decaduto tutto quel litorale, non solo lì Platamona, ma anche il resto, vedo verso le Dembici, capito, che lì è comune di Sorso, praticamente danno una ripulita al periodo estivo, ritracciano le linee blu per i parcheggi per fare qualche quattrino, poi finisce la stagione ed è tutto abbandonato, non c'è niente, capito, si sporca tutto, nessuno pulisce, invece i consorzi che si creano, quelli privati, acquistano i trattorini con i rastrelli, capito? Spazzano quasi tutti i giorni, puliscono quello che porta il mare e diciamo quei litorali lì li rendi fruibili per tutti e chissà quanta gente ci va, anche turisti ci andrebbero se ci fosse organizzazione. Ristoranti ne devi aprire molti di più, capito? Aprili anche durante l'estate, solo d'estate, ma aprine di più, rendili visibili, ristoranti di un certo livello, capito? Senza che siano con prezzi estremi, capito? Quello sì, le pizzerie, tutto quanto, invece poca roba, sempre la solita minestra, la gente si stufa e non ci va più così. Adesso la zona, diciamo, quella che è un po' rinata è dal ristorante di Ernesto, lì dalla Riviera, e poi verso Punta Bianca, quella zona lì che fanno musica, c'è la pizzeria, c'è un po' di tutto. Però poi dall'altra parte non c'è un capo. No, l'altra parte è proprio deserto, capito? Per chi è amante del nulla già va bene, capito? Si fa passeggiata e basta. Però anche i ragazzi, io dico, anziché vagare come zombie che non sanno dove andare, se tu rendi quelle spiagge vivibili d'estate, attiri la gente con discoteche anche per i ragazzi, almeno è tutto in comune di Sassari, capito? E invece non ci fanno niente, le puoi usare anche d'inverno pure, capito? Invece nutta, nessuno rischia, nessuno vuole metterci becco, come Alghero, lavorano d'estate, d'inverno è tutto chiuso, tu vuoi mangiarti qualcosa di buono, vai alla Lepanto ed è chiuso, vai in altri ristoranti, chiuso per ferie, capito? Loro aprono da aprile, da Pasqua, la stagione inizia sino a settembre, ottobre e poi chiude tutto, più niente. Io non è stato sempre a trovare degli amici a Ostia, tu devi vedere che cosa c'è a Ostia, da una parte tutto ristoranti, gelaterie, tutte queste cose, dall'altra parte divertimento a go-go, nella spiaggia ballano in spiaggia, fanno le musiche all'aperto, insomma c'è di tutto e di più, ci sono divertimenti di tutti i generi, capito? Diviso così, da una parte ci sono tutti quanti, praticamente sulla destra ci sono tutti quanti i ristoranti, viaggia, cantano, c'è spettacolo, ci sono giocolini, di tutti i più. Vuole entrare, sì, io te la conosco, c'è il pontile, bello, e pontile anche bello grande dove la gente va a passeggiare. Ostia la conosco molto bene, bei posti comunque, ma altre mentalità, Gianni, qua siamo lontani anni luce. Ehi, a chi vuole entrare? Avanti. Uno se sente che c'è gente che sta parlando si mette a fischiare così, boh. Andare. Niente, chi vuole entrare? Avanti. Sono rientrati gli altri, c'era Gianni Sampi che è andato a mangiarsi le bietole con la fettina perché non l'ha mangiata a pranzo, e poi c'era anche Luca che stava a piazza dalle casse del computer, vediamo poi se ha finito. e sta per un'oramma, ragazzi, è un canale di mezzo, vedo. Cioè, mi hai mente, cioè, ero io, ero, ma ero in un canale giù, ero, perché stavo provando a vedere stazionari e tutto. Ah, tu, pensavo che era qua, pensavo che era qua, tu. Sentivo fischiare, poi un fischio brutto, pure, strano. E vabbè, non c'è problema. Cazzo, settimana era. Scappa, ero un canale più giù, ero. Scappa. Da casa è tutta un'altra storia. La cosa strana è che lui mi sentiva, l'ho chiamato e mi ha sentito. Oh Gianni, ho detto, cazzo una curidissimani a Zichenni. Ehi Acappa, dai, adesso vado a cucinare, se pure un pezzino devi mangiarmi. La ridocca. Da ridocca. Vabbè, dai, vai tranquillo, non c'è problema, siamo qua. Se vuoi entrare ogni tanto, gira il sugo e pure il tuo. Farò qualcosa. Coppola in giù. Me lo vedi, Tore? Io, buonasera a tutti quanti. Non c'è andare dallo speaker. Lo so, sono già andato, mi ha detto che non erano quelle. E invece sono quelle lì. Le grandi sono quelle tue. Quelle grandi, però le hanno già ritirate, mi ha detto. Che quelle lì può mangiarle tranquillamente, che non era quella col cugiolino. Tu quale hai preso tu? Per saperlo, perché a me mi hanno detto un'altra cosa, mi hanno detto che era un fake e che loro non avevano avuto nessuna segnalazione per queste crocchette. Sì, ma detto che dice no, vada tranquillo, le faccio mangiare che no, che non è, che abbiamo già ritirato. Questo mi ha detto. Non li vuole già andare secondo me. Io gli ho detto una cosa solo, se il cane c'ha qualche cosa sono affari vostri. Sono affari vostri, perché no, stia tranquillo, è un fake, sicuramente è un fake che hanno messo, ma è la stampa che l'ha messo, non è un giornale che l'ha messo, quindi non è una cosa di fake. Oh, a me mi ha detto, dice, andate, le hanno già ritirate. Dico, non è quella signorina, fatta andare tranquillo, di dargliele ugualmente. Ma tu a Serra Secca sei andato, quello che c'è a Carlo Felice? No, andiamo al portatore, sì. Io invece a Carlo Felice, hanno detto due cose diverse, uno che le hanno ritirate, l'altro che è un fake, che non è vero, che loro non hanno avuto nessuna comunicazione, così mi ha detto la capo reparto, perché ha chiamato la capo reparto, perché quello gli ha detto a me non mi risulta. Vabbè, comunque, in ogni caso, l'articolo ce l'hai visto, l'hai letto? L'ho letto. Ma cosa? Un bel trano, uno dice una cosa e l'altra dice un'altra. Ma infatti io ho chiamato anche la finanza, lo sai. Così è. Certo. Sì, ho chiamato la finanza e gli ho detto la situazione, che risultavano queste crocchette che c'era, erano state mal conservate, si era formata una muffa che praticamente è cancerogena, cioè contiene delle sostanze che fanno male al fegato. E lui mi ha detto, guarda, io non sono un veterinario, però se gli ha fatto lo scontrino, cazzo, sono mignolanti in chili, per carità, lascia perdere, cosa c'è lo scontrino? Io non sto chiamando per lo scontrino, sto chiamando perché non me ne vogliono cambiare. È una cosa proprio purwede, sono imbastarditi. Parlo con loro, sanno che cosa fanno, è gente ignorante, non è informata, capito? A noi quando succedeva qualcosa del genere eravamo tutti informati, facevano una riunione per queste cose, capito? Vabbè, c'è che la direzione non li ha chiamati allora. Vabbè, mi prendi Carlo. Sì Gianni. Purtroppo è così. Poi c'è la domanda, io mi sa che sta mangiando tranquillamente. Chi altro ci sia, c'è Luca, ma anche lui sta lavoricchiando, sta sistemando il computer. Riprendete pure, dai, vi ascolto, poi se posso rientro. Proseguite pure Gianni, già vi sto ascoltando ma sono nell'altra stanza. E io che va bene, caro, dai. Se non ci risentiamo, ricevi salutato. Sì, a Benemera, ripeto, buonasera a Tore. Oh, ma Tore si deve essere allontanato. Vediamo un po' se qualcuno rientra, se no io spengo tutto, boh. Se c'è Tore, ok. Ma già ci sono, già, ma cosa non lo sento, per niente. Ah, ti ha salutato comunque, dai. Carlo, guarda, non ti sente Tore, ti saluta, dai. Marco, io lo sento già. A Tore non lo sei. No, a Tore già lo sento, che ha detto delle ruspine, che è andato e l'ha visto via via, ha ritirato tutti. Secondo me sono tutti mezzembroglioni, una cosa che hanno venduto, non vogliono ritirare niente. Però, se quella ti ha detto che praticamente non è arrivato nessun avviso, magari era una partita prima di quella che hai preso tu, capito? No, c'è specificato. Allora, tutti il mangime marca Rademens, quello praticamente, che tra l'altro è buono come mangime, perché io prima gli davo il trailer in cui c'era di quartiere all'usacco e lo faceva diarrea il cane, e questo qui invece con questo è regolare. Però c'è stata questa partita che praticamente l'hanno analizzata e hanno trovato questo problema qua. Però c'è scritto quella ritirare tutte le partite, quella in particolare, ma anche tutte le altre, perché vanno analizzate, capito? Ritirare tutto quel tipo di mangime Rademens, quello che ho io. E invece non me ne diciamo, ma mi dato questo, mamma, qui dice a casa che era un figlio, che dato cosa figlio, guarda, l'ho preso il telefono e gliel'ho fatto vedere, ma magari sai come fanno, mettono il Corriere della Sera, mettono qua, mettono là, e poi sono tutte cose false, muva, piglia delle luci. Cazzo, ma erano mai visti la sua giornata? E già ho capito che tipo di mangime, quello lo compravo anche io quando avevo quello scizzo, il cane piccolino, e quando c'avevo il gatto, perché lo mangiavano di più. Però, non lo so, Vizzi, magari, con la scusa che magari l'hanno comprato magari a pedane, e quindi magari non ne vuole i giambani. Però, se loro fanno un reclamo alla ditta da dove l'hanno preso, eccetera, eccetera, e quelli lì sono costretti per forza a ritirarlo. A chi mette i tu due, gli avrei detto, se succede qualcosa al cane, la responsabilità ve la dovete assumere voi, a chi vi vostro bagarsi anche di presidio veterinario, Sì, ma c'è scritto anche che è cancerogeno, capito questo affare papà, che a furia di prenderlo gli fa venire i tumori, capito? Se gli ritirano tutto quanto, la partita è quella del 13.04.2026, io invece l'ho presa il 3.04.2026, però al momento di ritirarli tutti, perché voi le analizzate anche le altre latte, capito? Gappa. Ma risulti sempre manfrina in ogni luogo, vero? Basta rivisiarti di 9 mesi già. Sì, ma io al cane ci tengo, capito? Infatti non ne sto dando, ho paura a darli, lo sai, ho paura, mi sono carne e pasta. Andave, cosa gli dai il tipo di carne di gozo? I fegatini di pollo, i gozi? No, gli do il cuore sempre di vitello, cuore, fegato, qualche volta gli do anche le fettine di cavallo, ma non sempre, quelle li costano e ogni tanto gliele do. E poi gli metto le zucchine bollite in mezzo, gli metto carote, capito? Te lo faccio io da mangiare, io le crocchette le consumo poche, perché gliene metto un pugnetto in mezzo alla roba da mangiare, se no non le mangia da solo. Gaffa, no, mio padre gli cucina un po' di pasta, poi magari gli mette qualche barattolo di questi bucconcini, capito, che compra. Mischia anche un po' di crocchette. L'ultima volta le ha prese alla Lidl, ha comprato quel sacco grande. Se no, in genere io quando prendevo quello che era misto colorato, quanto dai a livello di crocchette. C'era quello tutto marroncino e quello colorato, forse dove c'erano verdure, eccetera, eccetera. E si mangiano di tutto, glielo dà la mattina e mangiano una volta al giorno. E sono in campagna, gli fa un coso un po' abbondante, sono in tre e ui, si spazzoleggiano di tutto. No, io gli do due pasti al giorno, le do a pranzo, mangia con me, a pranzo, di modo che lui non venga a disturbarmi quando mangio, mangia insieme a me, lui mangia il suo, io mangio il mio, a pranzo e a cena, boh, basta. Ehi, quello sì che ci sta, ma perché ce l'hai a casa ed è diverso, ma essendo in campagna, capì? Magari quando scende la sera gli mette un paio di pugni di crocchette a testa e così, però la cosa gliela fa la mattina, gliela fa. Quando arriva la mattina alle 9 e gli mette da mangiare e così poi sono un po' tranquilli. Anche se non casini correndo tipo rotovato in campagna e da bui zicini e non ragazzi più. Invece mangiano, rimangono un po' tranquilli, allora io casini osservendo si fa raga che mi disò, si fa raga che curraccia, e momenti va raga che cosa, Isu Maria, allora metti basso. A tipo gozo buretto basso. Che cari sono da caccia? E praticamente uno è una specie di incrocio tra un cane corso e l'altro com'è l'incrocio. Sono tipo dei bastardini, sono, però sono belli, sono dei belli incroci. Come se tu incroci per dire lo sharpie come ce l'ho io col pitbull, esce un bel cane, ma veramente è bello, ma però magari vabbè che se addomesticato da gente di casa rimane sempre buono e dolce, però c'è gente che fa e da cui diventa animale, ma Mari, che io avevo un amico, aveva un pitbull, che su un pitbull varia una crea varia, tutto lui viveva e vedeva Gianni, si ruburia magnani, e infatti quando usciva, che c'erano amici e qualche ragazza, dovevo uscire con la museruola che di macca vizinane, chi pure la museruola barietti si puria pure innanzi. Era abituato perché lui tipo gli strizzava le palle, rubasi amaro, compreso mai. E adesso mi aveva strizzati. Ma così non si trattano gli animali. Non sarà Gianmario, quello mio collega, quello di Sorso, quello padronino che ci aveva la TT dell'Audi. Ma Bianca che poi travagliava al supermercato? No, quello di Gianmario era buono il cane, era docile, anche per un fradito. Stefano lavora con i Barrancelli adesso, che è il più piccolo. No, non è il più piccolo, allora ce n'è un altro più piccolo. Ma Gianmario già lo conosco bene. Gianmario era fidanzato con una piscina in gamba a me. Però era, non lo so, mezzo lunatico mi baria Gianmario. Vabbè che ognuno ha il cervello suo. Però adesso sono da un po' che non lo sento. Mira su Facebook. Gianni, mio non si chiama Pitbull, mi si chiama Beautiful. Piaggio, cioè, questo è Beautiful. Salutami a Gianni Sanpei, dai, che sono impegnato in cucina, vi sto ascoltando, sentiamo dopo se ci siete. Sì, ecco. Io me lo ricordo come se fosse oggi, c'erano Natalino e Luca che erano davanti a lui e io ero dietro. A me non mi veniva a ridere, ma gli mi veniva a casa, intanto gli scoppiava da ridere, come gli ha tolto il cazzo per asciugare i capelli, per sciogliere il ghiaccio che c'era nel pane, cazzo, che era tutto dal freezer, il pane ci ha invitato a cena, no? Noi siamo andati a prenderlo per andare in pizzeria, e invece non ci ha voluto venire, ci ha invitato lui a cena. No, Finanza era mitico. Mondino la stessa cosa, è molto amico suo, sono uguali. Va bene, dai, saluto. saluta da Gianni Ciampè, ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Gianni Ciampè, mi senti? Sì, ti sento basso, ma già ti sento, un po' in confusione con, forse con, tipo rumori di sottofondo, vedi, di onde elettrostatiche o onde elettromagnetiche, come si chiamano, onde stazionali. Però già ti sento. Comunque se mi cambio il filo, metto quello RG 213, vai tranquillo che sento tutti quanti. Gianni, devi sollevare di qualche metro quell'antenna per superare la collinetta che ostacola a me, capito? E cambiare magari il cavo che ha meno dispersione. Ok, perché Gianni c'ha lo stesso cavo tuo, però è in alto, è tutto aperto, quindi non è risente, ma tu avendo quel cavo, l'antenna bassa, hai poca ricezione, capito? Va bene, dai, vi saluto Gianni, riprendi, sentiamo dopo. Ah, io credo che è una bomba. Non ce l'ho più la RG52, c'ho la Cacenzo, quello grigio. Figurati, vedi, quello è un buon cavo, io ce l'ho lo stesso, ma c'ho quello nero. C'ho il 110 io. H110. Va bene, però per l'antenna VU, no, ma per l'antenna VU, per la quello di Polo, quello di Puri, mentre l'altro uso il 1000, l'H1000 e l'H110. Va bene, dai. Ascolta, come sta andando sto microfono? Vedo pochi picchi positivi, bene? No, va bene, Claudio. Comunque lui dispersione non ne ha, perché c'ha 5 metri di cavo, dall'antenna a dentro casa sua c'ha 5 metri. Allora già mi vai del 213, lascia isso un cavo, lascia quello, solleva solo di qualche metro l'antenna, capito? Dai, sentiamo dopo. Io ho l'H155. Quello stesso è un bel cavo, un buon cavo. Infatti, i risultati si vedono. L'antenna riceve da paura, l'impianto fa, perché non ho problemi con nessuno, lo sento tutti. Quindi già va bene. La grande, la grande. Dai, sentiamo dopo, Gianni doppio rumore, riprendi tu. Va bene, ecco, dai, siamo qua. Se non rientri, ti salutato. Va bene, Arturo, riprendi. Gaffa, tra un po' la vedete, sta bollendo l'acqua. Oggi il riso, molto duro il riso oggi. Io c'ho l'H155, paga la grande, guarda, non ho mai avuto un problema, una ricezione che di tutto il rispetto, sento tutti, non ho problemi proprio. Idem come sopra. Avanti Gianni. Ehi, gaffa, gaffa. Comunque, non lo so, perché questo che c'ho, il cavo, è un po' morbido, però magari, non lo so, ce l'ho da tanto, a chi vi la più dentro a, come si può dire, dentro a un armadio, e quindi magari, non lo so, però funziona bene, dai. Però mi hanno detto, metti quello là, che con l'antenna che hai tu, va molto meglio, perché ha detto che vivo bravo, ha detto che sfrutta tutta la prestazione dell'antenna. Sì, ma il suo cavo è un bel duccio, vedi chi si detta, a me non mi piace il 213. Cosa stavo dicendo? C'è anche Tore, Tore dove sei? Dove ti sei nascosto? Sotto il tavolo, anzi sotto la scrivania, mettilo. C'è la mia a te. Mia Pepe. Ciao Tore. Ciao Gianni, salutone che c'è il nuovo Antonio, capito Gianni, punto da sopporto. Ce ne tengo a salutarci. Ciao Tonino, mi hai sentito, dai. Riprendi Tore e poi fai girare. Come facciamo a girare? A rovescio? All'indrizzo. Ma lo senti Tore, quello di sotto? Sì che lo sento. Va benissimo, pure lo sento. Santiago, lo sento, ma arriva, però già lo sento benissimo. No, a me arriva 9. Tu sei più vicino al trenato pure di me. Sì, quello sì. Prova già a modulare. Brecco, brecco, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, brecco, prova, Gianni da Sorso. A me non mi vinti qua, ma ha attaccato le massime, perché prima era 7, adesso non mi vinti. buongiorno, io ho Gavarri 2925, cosa hai combinato? Cos'è, una vitamina raggio acceso. Asse bello forte qua, E quindi, però non capisco perché non sento tipo a quello di Usilo e a un altro. Perché non sono molto più, io lo sento benissimo a Uranio. Che non è Uranio? No, quello di Osilo ha detto, perché non sento quello di Osilo. Io lo sento benissimo. Sì, io lo sento anch'io, beh. Avanti, tu... Venga, io già vi dicevo a tutti, anche se sono piccolino, piccolino. Ma perché arriva Gianni Sampia, c'è Tunino? Avanti Gianni, a vedere. Prova radio, prova radio, 1, 2, 3, prova. Gianni Sampia da Sorso, Golfo della Ginara. No, per 20. E io come ti arrivo, Gianni? Non te lo so dire perché l'SMITER mio non è calibrato bene, però ti sento discretamente bene. Va bene, sì, dai. Ma adesso Gianni sei con Galaxy. K Roger, con Galaxy si mande. K. E l'altro l'hai aggiustato? No, l'altro mi sono arrivati i potenziometri, quelli BK10 e quelli BK1, che praticamente i B10 sono quelli del RF Gim e dello Squerch, mentre l'RF Power è il BK1. E quindi adesso lo metti a posto. Adesso lo piazziamo e niente, sto aspettando solo il portafusibili che praticamente non è ancora arrivato. Adesso li ho presi da quello dei potenziometri, perché i potenziometri li ho ordinati da un altro esercente su eBay e sono arrivati in 4-5 giorni. Questo portafusibile l'ho preso il giorno 9 e ancora è arrivato. E gli ho detto, tu mi hai fatto pagare la spedizione raccomandata e non lo so come me l'hai mandato, se non arriva c'ho la protezione cliente, però mi rompo le scatole a chi su Beppi Tenin di Bazza. Ma perché cosa questo portafusibile? Perché quello che c'era dietro, sono andato a svitare il fusibile per togliere quel coperchietto nero per metterlo a questo Galaxy qua. E si è tutto quanto sbriciolato, che deve essere la plastica era deteriorata. E quindi ci vuole, per l'altro Galaxy ci vuole il portafusibile nuovo, che è quello 6x5 mi pare, col fusibilino lungo di vetro da 2 ampere o 3 ampere. Ho capito. È quello che ha vinto, no? Quello che si ha vinto al da. Bravo, sì, quello lì è. E quindi senza quel portafusibile non posso piazzare il tutto. Perché quello là c'ha i finali originali, tutti originali, la scheda me l'ha pulita, me l'hanno controllata ed è a posto. Ci volevano solo questi potenziometri del RF Gain, RF Power e dello Squerch. E quindi penso che una volta che gli ripiazza dovrebbe funzionare bene. Magari mi fa l'allineamento anche, se c'è da fare l'allineamento. E poi me la metto in cameretta l'altra, invece questa che ho qua ce l'ho nel salone. Compro un deviatore d'antenna e sono a bomba. Bene, bene. Avanti tu. Ma io non ho capito una cosa, stiamo trovando con un Galaxy e stiamo parlando di LED di ricezione di segnale, ma io il Galaxy che avevo lo smitter, no il LED. No, ha detto l'SMitter, il smitter, dai. Lo smitter, io avevo lo smitter, quella lancetta che alzava, avevo due quadretti, capito? No il LED, e lui ha detto che non riesco a dare un segnale giusto perché c'ho il LED e non è, capito, fedele. Dunque, non so che Galaxy sta usando, forse quel tipo che ha solo i LED come ricezione e trasmissione. Oh, e Galaxy sa pure un ecco, quindi ha detto l'SMitter, invece che smitter, anche l'SMitter è la stessa cosa. E poi il coso ce l'ha, il Galaxy c'ha il fusibile, dietro c'è il fusibile, si svitta un tappo e c'è il fusibile dietro. lo so, perché ce l'avevo anch'io, quindi. Lo so, tu ce l'avevi anche via Maddalena a coltare più tre, io mi ricordo tutto Vitturi. C'ho una testa io che. No, lo so che tu hai messo in moto le camere che c'è nel cervellino. E uscivi anche un bel forte con quel gara a settare più tre, quando eri via Maddalena. Sì, un'altra cosa era, dai. Uscivo per forte in radio, era tutta un'altra cosa. Ma sai, quando cambio qua metto questo sciure, vedrei una bocca. Lo sciure nel garage? E farò provare a andare a vedere come va. No, quello ti sento io poi, No, per vedere se va bene, no? Già va bene, non preoccuparti. Comunque, sempre a Santiago 5 ti arrivo già. Sì, sì. State sopravvedurando, avanti l'amico che vuole entrare. E Antonio ci ha parlato. Ho detto che pure io ci sto pensando da un altro giorno. Cosa? Di prendere una base ad attaccare lo sciuva. E Antonio, noi sono noi. Io non ho capito Antonio, è basso il radio. Come basso il radio, non mi senti? Adesso sì, ma prima dei basso basso. Perché ho il microfono normale qua. Che c'è di tutto? Già lo so, va bene adesso. Che c'è che si sta bollendo l'acqua? Chi ci mi sembra attenti, mi sa. Oh, canto il minoretto questo vicino. Ah, mi fai andare a guardare, che faccio, cuciniamo la pappa, Gabriele. Oh, già mi sta abbracciando, mi sa. Comunque già, questo sciure è quello come c'aveva Fischio mio, uguale. Ah, Gianfranco, Battimora. Cappa, grigio, manopolina rossa, il volume si alza contro del microfono, della capsula. E sotto c'è un S rosso e poi cito sciure. E ce ne sono in merito di quelli sciure, solo che non so se gli hanno cambiato la capsula, perché a volte li cambiano la capsula e ce lo vedono come sciure e poi non è sciure. No, questo non girare. E bisogna essere fortunati tu lì, perché dentro non l'ho visto, quindi vedi il microfono che magari hai messo bene. Avanti a chi tocca. Ehi, tutto bene, tutto bene. Comunque già, sì, ormai sono fatto su, forse anche prima, a febbraio. A febbraio? Ma quando è la fiera? Mi sembra che era a metà di febbraio, e non mi ricordo se era Montecatina per cavolo, non mi ricordo. Devo riguardare il tabellone, mi rifatto la fiera dell'animatore, e poco parecchio. È solo che un bel pisante, in macchina ci devi andare. No, è in macchina, vado in aereo, e non arrivo fuori del treno, c'è una bella borsa con le rotelle. Niente. E magari te lo sequestro. Ah, negativo. Tu pensi, l'ho già scritto io un galaccio che ho dato a mio figliuccio, a Emanuele. Te l'ho scritto di Alghero, capito, a Milano. No, ero spartito anch'io insieme all'aereo, al baracchino, sì. E infatti ho detto, cosa c'è qua? Trovo un baracchino. L'ho preso a far vedere, l'ho fatto vedere, sì, a tuo posto. Quindi non ricordo benissimo, sono partito anch'io, gli ho dato via la porta, l'ho venuto a Emanuele e gli ho dato. No, vabbè, era una battuta, no? Di solito sequestrano la roba liquida, la roba tagliente, tipo forbici, coltelli, tutte queste cose. Sì, ed è quel baracchino che metto me con tutta mia Maddalena, non gli avevo dato. Perché? Hai venuto? Eia, ma un bel tempo fa, ma un bel, infatti cosa lui aveva ancora lì su vicino a Milano, mi si accomoda, detto vero, niente, contare più tre è tutto ragionato. Io mi ricordo anche che avevo il gatto d'angola. Il gatto d'angola? No. Sì, sì, me lo ricordo io. Chi era tua moglie? Tu gli hai vintiato, ma io no. Sì, ma niente, io gatto d'angola non l'ho mai avuto. E vabbè, comunque, se non te lo ricordi tutto, lascia perdere, che già ce l'hai avuto. Beh, esci, faccio la bassa, là. Mi pare impossibile il tuo gatto, io non dovrei mettere il gatto d'acqua. Quando eravate via Maddalena con tua moglie, c'avevi il gatto d'angola, anche i criceti mi pare che avevi. energetici e poi la soltanto il migliore ci dobbiamo avanti la parrucca. E tu mi hai detto qua c'è un gatto o un'ancora, me lo ricordo bene. No, io non me la metto riesce. Avanti già. Ehi, ehi, no, io c'ho il gatto siamese e uno persiano. Io il persiano l'ho avuto, ma siamese è micidiale, dice che fa gli dispetti, piscia tutto. Io voglio una serranda, la persiana mi si è fasciata. Ciao Claudio. Ciao Dorito. Io il persiano l'ho avuto anche quello, il mio, Titti si chiamava. Il mio era un incrocio tra un persiano e uno di quelli che fanno la pubblicità della gourmet, cos'è, d'Angola. Filoso, un gatto, bevia un sacco di bello. Poi mia figlia era piccola e era allergica al pelo del gatto, allora l'avevo regalato a mio collega. E io avevo preso il cane. Va bene, sto facendo. Ti ho sentito lontananza, Tony, vai alla fiera e ti metti nel trolley una radio e poi la porti in aereo. Ti ricordo che nel 2015 a me e ad Andrea Oceano, vivo il Vegeto, glielo puoi chiedere, a più o meno ti vasi in Macà, per poco perdiamo l'aereo, perché abbiamo dichiarato che erano due radio e a bordo non si possono portare radio perché secondo loro intercettano. Ho detto al comandante, ho detto guardi che sono spente, non sono accese, non le intercettazioni, le cose, era il periodo, no, nel 2011 era il periodo dell'attentato alle Torri Gemelle, a Giumeo Tevasi in Macà. Magari c'era anticrimine allora. Non lo so, siamo andati alla fiera in Norvegia, capito? Quindi abbiamo fatto Alghero, Linate, no? Milano. Quando siamo arrivati al check-in c'è questo, e queste sono due radio amatoriali, noi siamo radio amatori. No, ci hanno rimandato indietro al controllo, hanno voluto vedere cosa c'era dentro. Ah, giù mai biglimo un aereo. Secondo chi trovi, magari c'è quello pignolo che ti dice cosa, e un altro magari ce lo fa passare tranquillo. Ma me lo ricordo come oggi, il casino, eravamo una bella greffa, ma eravamo un bel tanti. Siamo divertiti da morire, ma io avevo comprato due radio, l'ho comprato, il TS2000 e l'FT920, quindi c'avevo due scatole grandi perché l'FT920 è abbastanza grande. Cazzo, oggi mai, Andrea Bordi, incazzato niente, mi ricordo il giorno, oggi mai bacchio la risa, c'è state calmi, io c'ho il biglietto, deve imbarcare, forse nel gruppeggio, ha detto Andrea, se non partivo non parte neanche l'aereo, ancora mai capito, guarda, abbiamo fatto un casino di Gesù Cristo, in un momento, un casino di Gesù Cristo. Secondo chi trovi, se trovi quello pignolo. E quando passa il check-in, questi due scatoloni loro guardano, dentro c'è roba, che cosa lo dichiarate? C'è una radio, come una radio, no, via, fuori, tutta terra, tutto, cazzo, apra qua, cazzo, mica i fratelli Monti baci l'aereo, forse nel golpeggio, forse non hai capito, poi infatti è partito in ritardo l'aereo, perché poi hanno voluto i documenti, una pressa me li gioco andato. Andrea era già quasi arrivato fuori nella pista, io ero ancora dentro perché ero secco, uno degli ultimi era a fare il check-in. Tanto mi ha lasciato i documenti, quindi mi hanno chiamato via radio, via coso, signor Marti al check-in per delle informazioni. Andrea non che non facciamo più, allora siamo tornati indietro, ma avevo dimenticato i documenti. E poi scusa, ti hai fatto qui girugato. Guarda, quell'avventura di Novegro me la ricorderò per quanto campo, cazzo. E c'è adesso dal 20 al 23 di febbraio. Infatti abbiamo detto, cazzo, la prima Novegro, guarda, non vado più, molami. C'ho un ricordo di quell'aeroporto, cazzo, micidiale. E tu che vai? Antonino non ne ha problemi, Antonino, basta chiamare l'amico, già lo sa lui. Chiama, viene a prenderti lui e fai due tribunali dove lui lì si sa spostare bene. Noi è la prima volta che siamo andati. Abbiamo imbagliato pure il tram, perché c'è il tram che ti porta dall'aeroporto fino alla fiera, ti portava. Abbiamo imbagliato il tram, siamo usciti a Punta del Gasino. dico, ma non è toccato, io no, no, vegro, fatelo raccontare Andrea. Poi c'era un filippino che stava facendo le pulizie, noi avevamo i carrelli per mettere la roba sopra, e questo invece aveva lo stesso carrello, però un ricumulo, i secchi. Andrea entra in bagno, cazzo, e quello non si prende il carrello di Andrea, oh, e a Giovanni ammazza. Le lacrime scendevano, c'era Marco, Scorpio, c'erano un casino di Gesù Cristo, abbiamo fatto un'avventura, più un'avventura era. Vabbè, ma che quello fa divertimento, Tone? Gesù, lo son qua, ciao Claudio. Ciao Squalo, buonasera, ben accoppiato. E io sono Vaivini che c'ho roba al fuoco, ma vi stavo ascoltando, te ci entro 5 minuti. Adesso mi allontano nuovamente. Tonino, dalla sedia sei caduto. Drumito. Per la sera dopo che passo che mangia. Ehi, ancora mi c'è da mangiare. Bobo, andiamo mai, andiamo. Vabbè. Ma non c'è bisogno, secondo me, di andare fuori, già lo trovi. E mi sto prenderlo qua, così lo puoi provare, puoi controllarlo. Ma se lo prendi da fuori, non sai mai che cosa prendi. No, beh, se vai in fiera te lo provano. Ci sono i venditori al banco, te lo provano lì. Ma stai scherzando? Ci hanno provato a noi il nuovo, mi, che ha la garanzia. Ce l'hanno provato avanti. No, non ce n'è problema. Ah, ok. Vabbè, io non sono mai andato alla fila della 27 o alla diamantoriale, non ci sono mai andato. Non posso dire nulla perché non l'ho mai vista, però pensavo che fosse su bancarelle, roba del genere, in radio, che fossero esposte così. Certo, sono tutti i venditori e espongono l'usato e il nuovo. Lo provano, non stai scherzando. C'hanno tante di quelle attrezzature allucinanti, ti provano tutto, no? Assolutamente. Poi ti fanno il foglio di cosa nel caso, capito, sino a quando arrivi a casa. Gianni, se hai la possibilità, che hai voglia di andare, vacci, perché è una cosa spettacolare. Non sono io, cioè stampano di capannoni uniti da 15.000 metri quadri, cosa allucinante, di tutto e di più, cioè non manca niente, dell'elettronica non manca niente, a parte vai alla fiera radioamatore, ci sono tutte radioamatoriali, ma non solo, computer, di tutto c'è, tutto quello che fa parte dell'elettronica, del ricetrasmettitori, ricevitori, antenne, microfoni, colonnine, di tutto, la sezione hi-fi, tutto c'è. Era l'unico che si apparecchi. Poi se uno anda e non devi comprare nulla, devi vai luci. Io mi ricordo nel 2011, mamma mia, lo guardavo spesso, per carità, non mi voglio ricordare, cazzo, non mi voglio ricordare. Ma qui si andavo spesso, due radio ricordo, ma radio che costavano un sacco di soldi. Va bene, mi allontano ovviamente a controllare la cucina. Tore, allora riprendi tu, dai. Io sto per chiudere. Ci risentiamo alle prossime. Ciao Claudia, ciao Gianni, a tutti quanti gli altri. Ciao Sanpe, se ci sentiamo. Alle prossime. Ehi, Agaffaroge, alla prossima, ciao a tu. Ciao Tore, ciao, ci sentiamo. Buona cena, dai. Alle prossime. Avanti, Sanpe. Eia, ciao Antu, ci sentiamo alle prossime, un saluto a Gabrielino. Stai parlando a Tore Squalo, non Antu. Ah, allora, ciao Tore Squalo, qua San Pei e tutto quanto così medio muso. Vabbè, dai, c***o, Cappa Roger. Antu, qui. Eia, Cappa San Pei, dai. Era, cosa era Tore, era? Allora non ha giubisco, uno che conosco non ha giubisco, cioè, ma io dico, ma la gente come ti ce lo faccio io, ma ciappano subito, ma come io ho già guidato la patente, cazzo, guidando dentro di te senza patente, ma roba la macchina, ma magari se l'ha presa la patente. non è a patente corriere, sono sicuro a 100%. Vabbè, l'ho fatto anche io ho preso la macchina del mio cognato, me l'ha data per quando ero ragazzo, mi ha dato le chiavi per lavargli, l'avevo lavata tutta quanta perché lui era malato e ci aveva la febbre, e mi ha detto me la lavi la macchina già, e dammelo. Ho preso una volta che l'ha lavata, gli ho buttato in moto e stavo salendo a Serra Secca, ho trovato queste due ragazze facendo autostop per gli abusati nelle curve scala di gioco, almeno non se le potevo far scendere, anche era un gabinetto come più un banco. No, ma chi c'è sempre così, è benevolmente così, sempre un gnadi, cioè un conto rapido una volta, un conto se è sempre così, cioè ma veramente c'è mancato niente mancante, cioè io che faccio cazzate, c'è casa a me, ma ragazzi, cioè a me per una cazzata, se ci rubo un maggiore riesco solo senza assicurazione, tranquillo che mi buttano una paletta, tranquillo. Cantù, io sono andato anche a Plattamona col carico di donne in macchina e facevo queste cose alla rotonda senza patente, se veniva qualche partita mi aveva fatto tutte queste cose, mi avrebbe fermato sicuramente con la macchina di mia sorella, gli ho preso le chiavi dalla borsetta, ero mancati quando ero ragazzo, le facevo in tutti i colori, mi è andata sempre bene perché non mi hanno mai trovato. Scappa, cosa vuoi fare, gente fuori di campo, no, io prima di toccare la macchina mi ero pigliata, ma ci ho fatto un bel poco di gavetta, e tuttora me la sto facendo, guidando mesi uno diverso dall'altro, mi sto facendo la gavetta, oh Gabriele, sto arrivando, mamma mia, cosa è successo? Gianni, io invece mi ho comprato prima la macchina e dopo mi sono buccata la patente. Ma io me l'ho presa prima, però mi fregavo a mia sorella le chiavi della macchina, la borsetta, e voglio dire quella la macchina, mi usavo di bere, ne è nato pure per fare la platta. Io pure quasi così, però vabbè, mi avevo comprato la macchina di giugno e poi a settembre mi sono iscritto alla scuola guida, però ogni tanto mastava Lubrecci e mi facevo un giro in hobby in zona in carriera, non andavo più di tanto, però dopo che mi hanno dato il foglio rosa, allora ti chiuda l'azzurra e papà mi diceva ma ne sei andato, mi ricordo che devi pigliare tutto, perché praticamente uscivo con lui, no, perché mi stava imparando. E lei dovrebbe avere uno che ha la patente a fianco, se no non puoi guidare con foglio rosa, se non c'è qualcuno che ha la patente. Dai, io ti saluto, che sono portato al vantaggio che vuole scendere giù, dai. Ci sentiamo, saluta a Taiso. Saluta. Ti aiuta. Ciao. Ehi, già. Andiamo, dai, porta a Taiso a fare una bella passeggiatina. E niente. Ciao, Taiso. Come ti dico? Sono Antonio Loro. Vabbè, ciao Gianni, alla prossima, ci sentiamo nei prossimi. Ciao, io ando a far mangiare, il rubicino va a fame. Ok, ci sentiamo, ciao. Ciao, ci sentiamo, dai, buon appetito, ciao. Ciao Antonio, anche a te, buona cena, buona ricarica, un saluto a Gabrielino, da zio Gianni, Sanpei, dilli di Vada Bravo, se no stanotte viene la Befana Squirci. Allora, salutoni a tutti, anche Sanpei, tacca dal 10.